34. La legna per illuminare la festa era ammucchiata sul prato, tra l'erba ingiallita di fine estate. Nell'ultimo anno, lo spiazzo incolto tra Fornia Gara e le baracche dei profughi si era molto ristretto. Nelle tre lune invernali, uno zoccolo di neve dura lo aveva coperto senza interruzione. L'ultima chiazza bianca s'era sciolta a Pentecoste, giusto in tempo per accogliere nuovi sfollati. Incursioni e rappresaglie spurgavano profughi dai villaggi di frontiera. Butler e i Seneca erano appena tornati con un enorme bottino di scalpi e bestiame. Susanna aveva chiesto notizie di Joseph per ottenere un'unica, banale certezza. Suo marito s'era staccato da loro e insieme ai volontari avrebbe continuato a combattere. Per il resto non una risposta che assomigliasse all'altra, come per ogni domanda su Joseph Brent e le sue imprese. Susanna ricordava i prigionieri di Springfield arrivati a Pasqua. Dicevano che Capo Brandt li aveva fatti chiudere in chiesa e da lì avevano assistito alla distruzione. Campi devastati, bestiame sgozzato, il raccolto e le fattorie in fumo, gli alberi da frutto segati alla base. Poi aveva lasciato andare donne e bambini e portato via gli uomini. Tre settimane più tardi, un medico olandese in fuga da Cobleskill aveva descritto l'inferno. La valle coperta da una foresta di pali col timbro di mostro Brent inciso alla base e teste di ribelli infilate in cima. Due famiglie di schiavi si erano presentate al forte a metà giugno. Dicevano di essere fuggiti mentre i volontari di Brent assalivano la fattoria del padrone. Alcuni raccontavano, eccitati, che l'indiano aveva dato il vecchio impasto ai maiali. Altri erano convinti che si fosse sparato per non finire in mano ai selvaggi e che Joseph avesse affidato le figlie a un amico che viveva nei paraggi. Dopo mille storie del genere, Susanna aveva smesso di chiedersi dove stesse la verità. Quando sgorga da una menzogna, l'odio è ancora più pesante e suo marito ne portava addosso un carico insostenibile. La luce del sole indugiò ancora sulla giornata estiva. Le acque del lago divennero una gigantesca lastra di rame. Infine si accesero le innumerevoli stelle e un attimo dopo cinque fuochi allineati lungo 200 yard. La processione tracciò anelli e spirali attorno a ognuno e presto li avviluppò in un unico abbraccio. Uomini e donne danzarono al battere dei tamburi, si percossero il petto, pestarono la terra. Poi il corteo si raccolse e tutti sedettero in cerchio. Molly depose nel fuoco un cesto di tabacco e diede inizio alla liturgia degli scalpi. Si alzò un guerriero e danzò a gara con le fiamme. I nastri colorati, appesi alle braccia, frustarono l'aria come la criniera di uno stallone. Puntò al cielo un'asta ghindata di chiome e centinaia di gole gli resero omaggio. L'uomo raccolse il fiato e cominciò a declamare la storia dei suoi trofei. Dietro una fila di teste, un branco di giovani non smetteva di saltare e gridare in coro. Sembravano ubriachi e quando un vecchio si voltò a riprenderli scapparono via, ridendo. Mentre si allontanavano, Susanna riconobbe la sagoma e l'andatura di Isaac. Fu tentata di andargli dietro, ma restò seduta. Non riusciva più a rincorrerlo, non in ogni occasione, e certi gesti perdono senso quando perdono costanza. Terminato il racconto, il guerriero staccò uno scalpo dal bastone. Apparteneva a un colonnello, un uomo valoroso. Il guerriero dichiarò che Molly Brent gli era apparsa in sogno, gli aveva dato istruzioni su come sorprenderlo e aveva chiesto di portarle lo scalpo per vendicare la morte di suo figlio Peter. Le teste si girarono verso la matrona. I tamburi ad acqua zittirono per la prima volta all'inizio della festa. Il volto della donna era un enigma di collera. Gli occhi bruciavano. «Tieni il tuo dono per altri! Non basterebbero mille scalpi per placare la mia rabbia e non ne basterebbero 10.000!» per placare lo spirito di mio figlio, che ancora vaga sul campo di battaglia. Le altre matrone annuirono e venne il turno dei prigionieri. Un ragazzino biondo venne spogliato e avvolto in un mantello di lino azzurro, mentre i suoi vecchi abiti bruciavano nel fuoco. La sua nuova madre smise di piangere e gridare e gli andò incontro, come se fosse il figlio, tornato senza preavviso da un lunghissimo viaggio. Lo fece alzare da terra e lo condusse dai nuovi fratelli. Anche le altre donne chiesero figli e mariti. Nessuna scelse di dare la morte. Susanna pensò che era un evento raro in un tempo tanto disperato e crudele. Una nazione di 300 profughi non poteva permettersi di sprecare una vita.